durante la lezione. È solo chiacchiere distintivo, solo chiacchiere. E 59 minuti primi sugli 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale. Radio Onda Rossa. E da un po' di giorni è iniziata la campagna di Radio Abbonamento 2024 che abbiamo chiamato Digiroar. Digiroar perché da un paio di mesi a questa parte la radio trasmette dalla provincia di Terni attraverso il DAB e quindi il digitale. Perché non ne facciamo un mistero? Abbiamo l'ambizione di duplicarci e quindi di trasmettere sia sull'FM, come ci piace dire, della banda romana e laziale, gli 87.9, ormai da tanti tanti anni dopo i 93.3, 93.4 e 50. Che appunto ci duplicheremo prima o poi per arrivare anche a trasmettere in DAB sulla provincia di Roma. Questo vorrà dire che come a Terni ci si dovrà dotare di un apparecchietto, una radio DAB. Alcune automobili già ce l'hanno il DAB, quelle più recenti, più nuove, sulle radio in dotazione. E comunque significherà, comunque speriamo noi almeno, e confidiamo di farlo, nel raddoppiare gli ascolti. Ma questo sappiamo bene che dipende da noi, dipende da voi, dipende da chi la radio la fa, dipende da chi la radio l'ascolta e la fa allo stesso tempo. Perché sapete che Radio Onda Rossa innanzitutto è una radio autogestita che quindi funziona sulla responsabilità di un collettivo redazionale che comunque è aperto a chiunque voglia collaborare. E funziona perché sappiamo appunto che l'interdipendenza, l'interconnessione con chi ci ascolta è fondamentale proprio nella stesura dei palinsesti della radio, le vostre collaborazioni in tutto quello che si muove nella città e fuori devono passare per Radio Onda Rossa. Ci piace farlo, ci piace, come dicevamo un tempo, dar voce ai senza voce. E la nostra campagna annuale di radioabbonamento serve proprio a questo, serve anche a coinvolgere ancora di più tutte e tutti. L'obiettivo è quello di raggiungere 37.000 euro per far vivere in tranquillità la radio per un anno intero. Da qui fino alla fine della campagna di radio abbonamento, le prime che sosterranno in maniera importante la radio, insomma con una cifra importante, i primi 37, come 37.000 euro, avranno un gustoso regalo. Ovviamente di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo per tutto ciò e per le informazioni che sono contenute su, per avere informazioni più appropriate sul radio abbonamento, sulla campagna di radio abbonamento 2024 di Giror, invitiamo ad andare sul sito ondarossa.info, ci troverete appunto il banner, il bellissimo banner quest'anno, mostruoso, allegramente mostruoso. Digitando, cliccandoci dentro, si accede alla descrizione della campagna di Radio Abbonamento 2024, oltre che andare a consultare il sito importante per andare a capare quel che vi siete persi durante... È partita a botto, perché vi siete persi durante la programmazione in broadcast della radio, appunto, la potete poi riascoltare in podcast. Ma dato che siamo andati lunghissimi, rimandiamo da capo questo incipit dicendovi che stasera non so se riusciremo ad arrivare alle 23.30, perché questa è la roba che manderemo, rapidissima, velocissima. E dal momento che abbiamo finito da molto tempo le parole, non sappiamo se appunto riusciremo a trattenervi molto a lungo, data la brevità delle tracce. Vabbè, da capo comunque. 06491750, recapitore telefonico, ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione, 25oclock@ondarossa.info per molestare chi conduce questo spazio. Da capo quindi, Dillinger Escape Plane, c'è sempre un piano di fuga. Era un po' quello che nella scorsa puntata avevamo cercato di narrare, e quindi da capo. Sunshine the Werewolf, The Dillinger Escape Plane, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. We'll be right back. paura, fa tutto da solo, eh. E quindi mentre le tracce cortissime diventano più lunghe grazie alla automanipolazione del CD di sinistra. Questo per dire che questo disco è il disco della sigla e ve l'andiamo un po' a spiegare fra qualche istante. We sacrificed our life fighting the apartheid regime, hoping that things would be better. We are going for a revolution. Minuti primi, dai che procediamo. Allora, dicevamo, molto spesso capita che alla fine della trasmissione, quando mandiamo la sigla finale, The International Noise Conspiracy Under Communist Moon, poi ci imbattiamo in qualche altra traccia da questa vecchia raccolta, vecchia quanto la trasmissione, poco più, poco meno. Perché dopo un periodo in cui inizialmente 25 O'Clock presentò come sigla conclusiva Golden Age degli Union Carbide Production, poi quel disco ce lo perdemmo e all'epoca si andava unicamente a dischi. E spuntò fuori questa raccolta portataci direttamente dagli States. Si trattava di uno dei tanti demo che venivano presentati dalle etichette più o meno indipendenti, che in realtà rispetto alle nostre etichette indipendenti sono delle major negli Stati Uniti, erano delle major negli Stati Uniti. Ed era appunto una pubblicazione promo dove trovavamo 28 tracce su CD e 24 tracce su DVD allegato. Era un costume. Tante di quelle band che fanno parte di questa scaletta già del disco in sé hanno poi fatto parte, almeno delle band hanno fatto parte poi della scaletta di 25 O'Clock, band che provenivano appunto un po' da tutto il mondo in realtà e venivano raccolte. Da quella appunto etichetta indipendente, che poi tanto indipendente non è, che è la Epitaph. E quindi abbiamo ascoltato Converge. La traccia Black Cloud dopo The Dillinger Escape Plane. E poi sotto la nostra voce invece SFC da Taranto, Nostrani. In uno split che fecero con gli Obofobic, mi pare, in concomitanza con un anniversario di tutte e due le band. E anche per gli SFC abbiamo ascoltato la seconda traccia di Worm. Ed ora, rimanendo nelle nostre parti, un altro grande classicone dell'hardcore romano, per l'esattezza. Payback non poteva che essere old school, perché tutto sommato siamo dei... ancorati alle nostre radici più profonde. E quindi i suoni che inducono alla ribellione sempre e comunque. Payback, old school, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Minuti primi, e dicevamo che è estremamente facile andare lunghi. E confidiamo di riuscire ad aumentare le vostre pulsazioni cardiache. Ovunque voi siate, nelle vostre autovetture o altrimenti nei vostri appartamenti, se avete la cuffia. Tenetela alta se avete altri apparecchi, radioline, roba del genere. Fatele gracchiare. Dicevamo appunto il disco che tante volte abbiamo passato semplicemente per, no, tutte le volte abbiamo passato semplicemente per mandare la sigla, e che invece ci siamo persi per strada in questi più di 20 anni, pur contenendo delle cose che invece avremmo potuto mandare tranquillamente per tanto tempo. Però si sa, no, quando stai da questa parte del microfono e dei lettori di CDJ, tendi a passare da un disco all'altro e non a rimettere il disco stesso. Per cui, dalla California, inizio degli anni 2000, come tutte le cose che più o meno state ascoltando questa sera, poi vi diremo quando usciremo fuori da questa parentesi temporale. Rob Moran, Christopher Sparg, Chuck Rowell, Nathan Joyner, in arte Sun Girls. I Need Drugs, più espliciti di così, dai. questo split, Charlie, split con i Naid, Charlie, hanno veramente concentrato tutto in pochissimi secondi. Abbiamo così ascoltato le prime due tracce del lato relativo appunto ai Charlie, anche la terza è passata. Lavoro che si chiama Split 2008 e ringraziamo perché ci hanno messo la data, così sappiamo anche quando uscì questo lavoro. Radio Onda Rossa 25 o'clock. Grande confusione, che bello. Andiamo in Germania, poi magari ci fermiamo qualche secondo in più, eh. Peace, love ed empathy. Blue Point ID. Si è dato via i tuoi dischi. Non si riescono a trovare grandi informazioni e di questo siamo contenti. Nemmeno nella rete le cose per quanto riguarda questi Floyd Flu Point ID. Lavoro anche questo del 2008, di cui appunto la rete ha perso le tracce, almeno a una ricerca così più superficiale. tutto sommato questo ci riempie il cuore. Se non quelle che si possono trovare su Bandcamp. E che sono relative appunto a quest'unico lavoro. Prodotto per la Interstellar Record Mods. E poi pubblicato per la Exile of Resistance. Completamente remixato e rimasterizzato, dice questo lavoro. Ci teniamo a dire che è uno di quegli ascolti che facciamo molto volentieri in talune occasioni, anche per la tecnica raffinatissima di esecuzione. Un'estrema velocità, uno scream meraviglioso e allo stesso tempo suonato con una tempistica, si acchiappano, come si dice da queste parti, alla grande. Altre informazioni non ve ne possiamo dare se non farvi ascoltare questo lavoro, magari così in questo periodo di revival di cose antiche che ci portiamo da un po' di tempo. Quindi gli studi della radio magari avremo modo di approfondire anche di più, dato che stiamo parlando di altissimi livelli. Ritorniamo dalla Germania negli States. Trice. Dread Death. E 39 minuti primi, 26 secondi sull'orologio tutto rosso di Radio Onda Rossa, e ricordandovi lo 06491750 per illuminare di rosso la redazione della radio più rossa che c'è. 25 o'clock controlla, ma più che controlla mi sembra che siamo controllati. Quindi parlavamo prima della tazza, eh? E non parliamo della tazza, quella che sta qui alle nostre spalle, che serve per altre cose, dietro il muro, insomma. Ma della tazza Paper Surgery, esclusiva tazza firmata da Paper Surgery, edizione limitata in 37 pezzi, come 37.000 sono gli euro che servono alla radio per mantenersi in vita, in tranquillità per un anno. Questo è quanto stimiamo noi. Questo non significa che la radio non si producerà in una serie di iniziative che anche quelle sono di finanziamento per la radio, ma che, come diciamo spesso, ci piacciono anche andare nei luoghi, nelle strade, nei posti occupati per incontrarvi tutte e tutti. E comunque diamo breve lettura di quello che è il progetto di Radio Abbonamento. Da 47 anni Radio Onda Rossa trasmette in FM e da quest'ultimo anno Radio Onda Rossa trasmette anche in digitale. È facilmente prevedibile che nel prossimo futuro il segnale DAB Acoustic Audio Broadcasting sarà la modalità di trasmissione principale per tutte le emittenti radiofoniche, rendendo marginali le gloriose frequenze in FM che ci hanno accompagnato fino ad oggi. Per noi passare al digitale rappresenta quindi una condizione essenziale per continuare a esistere e lottare. Il DAB però non è solamente un'imposizione, ma anche molte possibilità in più. Coprire nuovi territori, dare voce a nuove lotte, mettere in connessione realtà fra loro molto lontane. Radio Onda Rossa già trasmette in DAB in via sperimentale nella provincia di Terni, in cui stiamo lavorando perché molte realtà locali possano aprire le loro trasmissioni da cui far risuonare le voci del proprio territorio. Ci stiamo inoltre muovendo perché il nostro segnale possa essere ricevuto dalle radio digitali, cercando Onda Rossa nel display della propria radio DAB, anche nelle province del Lazio e in altre province umbre. Tutto bellissimo, ma quanto costa? Parecchio. DAB quindi, per quel che ci riguarda, significa digitale autogestibile bisognosa. Il segnale DAB è meno intenso di quello in FM e quindi consuma di meno, ma al contempo per noi il numero di ripetitori necessari aumenterebbe, almeno per ogni provincia, mentre parallelamente continueremo ad andare in onda dal trasmettitore in FM. Abbiamo stimato che con queste nuove spese quest'anno la radio potrebbe avere bisogno di circa 37.000 euro di contributi da parte di radioascoltatori e radioascoltatrici. Metteteci pure che, insomma, un euro di 3 anni fa non vale un euro da adesso, questo così è NDR, nota di redazione da parte nostra. Radio Onda Rossa è una radio completamente autogestita e indipendente, che non prende una lira da sponsor pubblicitari o padrini politici, in cui nessuno riceve uno stipendio per il lavoro svolto, che è interamente volontario. Radio Onda Rossa vive grazie al contributo di tutte e tutte noi, per cui ogni radio abbonamento andrà a sostenere il 100% la vita ordinaria della radio e la sua costante evoluzione, per trovare sempre nuove modalità di portare nelle vostre radio, digitali o analogiche che siano, un'informazione chiara e indipendente dal basso, dando voce a chi la voce non ce l'ha. Il radio abbonamento di quest'anno è di 50 euro meno di un euro a settimana, ma se poi ti chiediamo di sottoscrivere di più anche per chi non può. E appunto le prime 37 persone che sottoscriveranno più di 100 euro riceveranno un dono, in dono una tazza edizione limitata del radioabbonamento di Giro 2024 firmata Paper Surgery. Allora, è così, tanto per dirvi che se il radioabbonamento è iniziato da qualche giorno, di tazze Paper Surgery, tanto per capirci, di 37 ne sono rimaste 19, quindi insomma, se avete un salvadanaio da rompere, il celeberrimo porcellino, dateci una mazzettata, 19 tazze rimanenti per sostenere la radio, che è la cosa poi più importante. E 47 minuti primi da oggi il mondo nuovo che sta per cominciare. Loro sono gli Affluente. Ed è uno split con Fora d'Arastu, invece provenienti dalla provincia di Cagliari. Un disco magnifico, in gran parte dedicato alle figure femminili e alle lotte delle donne, un omaggio questo a Francesca, appunto si chiamava il titolo della undicesima traccia di questo split, proprio dalla terra della Sibilla. Affluente, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Fanciulle che avete stuprato, i bimbi che in vano vi chiesero il pane, nel giorno dell'ira, nel giorno del fato, i giudici vostri borghesi saranno, nel giorno dell'ira, nel giorno del fato, i giudici vostri borghesi saranno. 53 minuti primi sulle frequenze di Radio Onda Rossa. E riconoscerete, per almeno quelli che c'hanno un po' più de pelo sullo stomaco, anno 2009 per l'uscita di questo The Guantanamo School of Medicine, cioè la band di Jello Biafra. E più precisamente Ralph Spite, Kimo Ball, John Weiss, Billy Gould più Jello Biafra, che appunto faceva il pagliaccio sul palco. E lo ricorderete appunto nella presentazione di questo disco al Forte Prenestino nel 2010, il concerto per la radio. Tanto per ricordare appunto che sempre ci siamo sostenuti, grazie al vostro contributo, anche quello. Che ci avete portato venendo alle tantissime iniziative che abbiamo fatto in tutti questi anni, grandi e piccole, periferiche e centrali. Nella fattispecie questo concerto, diciamo che fu molto partecipato, ci suonarono in ancora i Grunge e poi Guantanamo School of Medicine. In realtà poi le spese furono molte, quindi diciamo fu uno di quei concerti fatti un po' a buffo, insomma, e anzi, però molto presa bene con il Forte. E riteniamo poi infine che, al di là dei soldi del finanziamento, che sono centrali ed essenziali, l'importante comunque è comunicare, stare insieme a tutte e tutti voi. Lasciamo Guantanamo School of Medicine per dei suoni che un po' ci ricordano le fredde e svelte filastrocche caustiche del Menestrello di San Francisco. Appunto, dicevamo, lo split di Affluente e Afora d'Arresto, e adesso è il momento di Afora d'Arresto Burumballa Onda Rossa 25 o'clock. Ed era Nick Olivieri dopo il Aforo d'Arrastu. E anche queste due tematiche relative. All'oppressione patriarcale, così possiamo definirle. Burumballa appunto racconta di questa vicenda di patriarcato e del disgusto che provano loro in questa relegare il ruolo delle donne a quello di procreatrici. E quindi il loro insulto finale al movimento per la vita. Ovviamente, insomma, in sardo, da queste parti, chi non è madrelingua poco avrà potuto capire. Non abbiamo la traduzione appresso, che comunque è contenuto, perché si tratta del CD, invece è contenuto in un vinile con la copertina appunto del vinile, che non abbiamo portato appresso, in cui sono indicati sia i testi sia le traduzioni. E poi andando dall'altra parte, nella California di Nick Olivieri, Lie of Sin, che se la prende con il cristianesimo e il suo moralismo. L'insulto finale, che pure avete sentito. E insomma, interessante anche questa versione di Nick Olivieri, che diciamo nel giusto equilibrio fra dello stoner, fra la psichedelia e il punk, il rock sudista, ecco, un po' tutto questo era lo stoner. In questo frangente, in questa fattispecie, Nick Olivieri pende di più per il punk hardcore. Andiamo avanti. Andiamo avanti, ma restiamo da quelle parti, esattamente a Ukiah, in California. Fondati nel lontano 1991. Ma ancora in attività è Fire Inside, meglio detti EFI. Un'altra di quei dischi, di quei due o tre dischi che abbiamo degli EFI, che abbiamo mandato negli anni scorsi con una certa assiduità. Anche qui lo scream alternato invece a fasi più melodiche, quasi folk in alcune circostanze. Detto season, andiamo ad ascoltare. Dal lavoro Sing the Sorrow, EFI, Radio Andarossa 25 o'clock. 18 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock, controlla, e di seguito abbiamo mandato dopo e Fire Inside con lo stupido Ballast bruciato sulla candela dal Canada, un'altra di quelle formazioni che, di cui non si riescono a ottenere dati dalla rete e di cui ancora ci compiaciamo. Nella pozzanghera gli affianchi rimangono però i dischi, rimangono le produzioni. Il plotone non si è accorto del soldato caduto. Lavoro del 2005, soldato caduto, edito da Profane Existence, che era un'etichetta canadese di... Morto non può parlare. Non so se è, se è un'etichetta canadese, penso di sì, comunque loro provengono dal Canada. Chi ha visto non era cieco. Con la frontman che è una voce femminile, da cui abbiamo ascoltato la traccia Morto d'eroe sul numero 9, che si chiama Bat Out, Cattivi pensieri. Ma il plotone non si è accorto del soldato caduto. E poi Acceso, non si è accorto del Kalashnikov Collective. Nessuno era più caro. Che nel 2013-2014 già ci introducevano un argomento che sono 20 minuti della mezzanotte, potremmo stare almeno un'altr'ora a parlarne e a girarci intorno. Chi sta in alto dice questa è pace, questa è guerra. E nel 2013-2014 tutti dicevano che era pace, nel 2022-2024 tutti dicono questa è guerra. Il plotone non si è accorto del soldato caduto. Il plotone non si è accorto del soldato caduto. E appunto bisognerebbe capire dove vengono puntati i riflettori. Non si è accorto del soldato caduto. Certo che questi giochini di guerra ci mettono un po' di preoccupazione, come altrettanta preoccupazione ci mette appunto la loro pace, perché non è altro che una preparazione alla guerra. Ma quello che ci preoccupa di più, dicevamo, potremmo benissimo fare l'1.20 come minimo a girarci intorno, e che magari questi giochetti siano così evidenti e fossero magari giochetti, ma sono cose che portano distruzione e devastazione, ma non a tutti. Perché lo ripetiamo sempre, intorno al grande gioco della guerra c'è chi ci partecipa molto da lontano, dove non si sentono nemmeno i rumori, ma sta lì attento a contare quanti soldi gli entrano. Fascinati dalla furia di un torrente. E al contrario nostro, che temiamo la guerra, ha invece tutti gli interessi a fagocitarla per fare in modo che il flusso di denaro non si interrompa. E le tasche diventino ancora più gonfie. E quando le tasche sono gonfie, si accresce anche il potere e quindi la possibilità di convincere che questa è pace, questa è guerra. E tutto si conclude con il solito armiamoci e partite. Non che qualcuno magari gli viene sparato pure qualche missilotto sulla casa, e questo non è affatto piacevole. Dicevamo, tutto quello che ci preoccupa di più alla fine, almeno per quel che vediamo intorno a noi nella nostra società, è il sostanziale silenzio intorno a questi accadimenti, il torpore narcolettico. Fortuna comunque in periferia c'è chi questa lezione l'ha imparata bene. Festivali sono come ricordi tenuti insieme con il filo di sutura, il motore. E come dicevamo all'inizio, ci sarà un piano di fuga. Comunque si ferma a guardare quello che c'è intorno, sapendo che tutto può essere portato via in breve, sia essa pace, sia essa guerra. E quindi dalla periferia, ultimo lavoro per Palcoscenico al Neon del dicembre del 2023, Ossi di Seppia, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. passato, colpo inflitto nel costato. Sorpasso ogni errore, delete past è un orrore. E io divento pazzo, mi sento divorato. Affondo in un sostrato di silenzio, non son coscio del mio operato. Frustrato, in palio, la caccia al reato. Mi sento condannato. Sono tutte le pene autoinflitte che ho accumulato. Slave master di me stesso, se word l'ho dimenticata. L'apatia respiro ogni sospiro. Malattia, delitto e castigo, l'antagonia. L'antagonia. La configurazione del lamento ripiegato su me stesso, scruto solo ciò che ho dentro e mi tormento, culto del mio io. Monoteismo ateo, altare al mio Dio. Ego come malattia moderna, sordità ad ogni voce esterna. Se guardo il mondo sulla cartina in rovina, non so nemmeno dove sia la Palestina. Thank you. Minuti dopo la mezzanotte, da paura i Gurashi, fricchettonissimi dei Soulflyer Union, con colpo di tosse annesso. Radio Andorossa 25 o'clock, siamo ai saluti finali, ma li facciamo belli lunghi stavolta, perché salutiamo chi, come nelle ultime tre tracce, ci ricorda e noi ci ricordiamo di loro, quindi Pavel, da Bologna. La configurazione del lamento, e lo salutiamo. Poi di seguito le etere e aleatorie sonorità di Velester. Fufluns dal lavoro che si chiama 2024 AC. E prima di loro, palcoscenico al neon, salutiamo Ciccio che sappiamo essere all'ascolto. Ossi di Seppia, anzi, dato che sa, canta un po' a romana. Ossi di Seppia. Igurashi, proviamo a far finta di sapere il giapponese. Qui pure se ne potrebbe parlare di questa roba finale che ci accompagna alle conclusioni. Si tratta di una band che racconta una di quelle verità che rimangono celate, cioè dell'imperialismo giapponese, che ha cercato sempre di allargare la sua sfera di influenza e le sue pratiche di dominio su tanti territori, quindi dalla Cina alla Corea, a quella che effettivamente è una parte del Giappone stesso, cioè l'isola di Hokkaido. A nord del Giappone, un'isola fredda, abitata da popolazioni indigene del luogo e che hanno visto così nei secoli proprio rosicchiare la propria autonomia dal pesante vicino. Hokkaido che confina a sua volta ancora più a nord con le isole Curili, ed è così, è curioso conoscere che il Giappone non ha mai, dopo la Seconda Guerra Mondiale, così come l'Unione Sovietica dell'epoca e la Russia poi, in realtà ha firmato un trattato di pace per via proprio di queste piccole isole contese, che essenzialmente hanno una, praticamente sono disabitate, ma che contengono una grande quantità e qualità mineraria. Ed è un po' così che va la storia, insomma, delle guerre che mai terminano. Mercoledì prossimo non ci saremo, quindi credo che forse, chissà se riusciremo a esserci invece mercoledì successivo, quindi non il 3 ma il 10 di aprile. Ricordiamo a tutte e a tutte il Digiror Radio Abbonamento del 2024, partito da qualche giorno, e quindi di consultare il sito di ondarossa.info per andarci a cliccare sopra e capire perché lanciamo questa campagna di radio abbonamento e perché ci dovete aderire. Il nostro saluto più importante va, come sempre, a tutte e tutti coloro che ci ascoltano in condizioni di limitata libertà personale, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, il carcere, le carceri. Un abbraccio ai compagni palestinesi arrestati e che per ora hanno scampato il pericolo dell'estradizione, ma che comunque rimangono reclusi. E vi chiediamo quindi di mobilitarvi anche per loro. Sul sito della radio ci sono alcune iniziative. In evidenza per stare vicino alla Anan Ali e a Mansour, i compagni palestinesi in carcere. Storie di guerra, storie di colonialismo. Ribelli e vittime ribelli. Il palinsesto in diretta finisce qui. Per questo mercoledì barra giovedì notte si riprende con dopo le repliche e le bizzarre selezioni musicali della compagna automatica Sonata, si riprende dalle 8 con la lettura delle prime pagine dei giornali, della rassegna stampa, la rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattinata fino alle 12.30, l'una, 12.40, 12.15, fate un po' come viene. Pausa con repliche fino alle 14, che c'è tutta scena cinema, la trasmissione sul cinema di Radio Onda Rossa. Dalle 16 alle 17 Attica Blues, dalle 17-18.30 più o meno Le Schiene del Sole, dalle 20 alle 21.30 la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, Tabula Rasa, e infine I Cuginetti d'Apostasia. State sintonizzati sulle frequenze di Onda Rossa. Bella a tutti, ci risentiamo probabilmente il 10 di aprile. Dai, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. I'll share our dreams under a communist moon.